Radio Aelia Media, tutti i giorni dal 15 ottobre dalle 16 alle 20 in Piazza Pontoni. Radio. Mio nome è Pablo Elguera, sono un messicano, sono artista. Dal 15 di ottobre dalle 16 alle 20 in Piazza Puntoni. www.aeliamedia.org. Buonasera, ci troviamo in Ciao Bologna, che è un programma radiofonico inventato da me, mi chiamo Marianna Mendozza, ed è incentrato appunto sulla mia ricerca personale, che grazie a Pablo Elguera sono riuscita a focalizzare e a darne un nome. Essa comprende l'introduzione del concetto della partecipazione, applicandolo a qualsiasi esigenza privata e pubblica, con la regola principale di ascoltare. Sono partita dall'accoglienza iniziale di Bologna, ecco il ciao, per proseguire con interviste sulla conoscenza dell'interfaccia bolognese, attraverso la strada, luogo principale delle persone, persone che diventano fulcro della mia ricerca. Oggi ci troviamo a parlare con due avvocati di due associazioni. La prima è l'associazione Alzirat, con l'avvocato Sara Pusceddu, l'avvocato Puddu, la quale gestisce lo sportello informativo che si trova all'XM in via Fioravanti 24. E poi abbiamo dell'associazione l'avvocato Costantino Giordano, il quale appartiene agli avvocati di strada. Avvocato di strada. Sì. Poi abbiamo come ospite un amico che si chiama Said. Buonasera ragazzi. Ciao. Ciao e grazie per l'invito. Grazie a voi che siete venuti e ricordiamo che siamo in piazza e abbiamo la possibilità, qualsiasi persona che entra può entrare e fare delle domande appunto inerenti a argomenti che ora trattiamo. Diciamo che solitamente si tratta dell'immigrazione come una tematica facile, pietosa o comunque poco dispendiosa, no? E invece noi volevamo proprio parlare con chi nel settore lavora tutti i giorni e tutti i giorni viene forse dimenticato il lavoro che si deve fare rispetto a delle esigenze quotidiane di un essere umano, qualsiasi esso sia, se come barbone oppure come senza dimora, appunto, oppure come immigrato che viene da un altro paese, sono questioni legate comunque appunto a diritti che vengono molto spesso dimenticati o comunque nessuno fa in modo tale che le persone che non abbiano la capacità di avere o comunque di poter dare un senso al proprio diritto, comunque un peso al proprio diritto, non viene assolutamente ascoltato. Allora, a questo punto, parliamo con gli avvocati che ne sanno più di me. Con chi vogliamo iniziare? Con Sara Puddu. Ciao. Allora, io sono Sara dell'Associazione Interculturale Alzirat. Gestiamo uno sportello medico-giuridico per migranti gratuito presso gli spazi dell'XM24 e lavoriamo più o meno da un anno e ultimamente ci siamo trovate in particolare ad affrontare la problematica dei titolari di permesso umanitario. Normalmente ci occupiamo di tutto quello che riguarda l'immigrazione e, per quanto riguarda l'area legale, di quello che riguarda l'area l'area extragiuridica, quindi tutto quello che riguarda i permessi di soggiorno, le pratiche che si possono trovare ad affrontare, che sia la pensione con l'INPS, che sia una ricerca di lavoro, dipende insomma dalle necessità che possono avere. E li aiutiamo in tutto quello che è il contatto con le istituzioni, quindi se gli arriva una lettera a capire che cosa è, se devono fare una lettera di disdetta di un contratto, cioè si passa dalle più piccole cose alle cose più importanti, come può essere un accompagnamento in questura, andare al posto loro a presentare un'istanza, capire perché i loro permessi di soggiorno a volte sono fermi da anni e non gli viene data nessuna risposta. Insomma, questo tipo di problematiche che normalmente noi come italiani, cittadini, normalmente ci troviamo ad affrontare, ma per questioni non quelle naturalmente legate all'immigrazione, ma conoscendo la lingua, sapendoci approcciare allo Stato, alle istituzioni, avendo anche un'idea di cosa vuol dire sistema sociale, società civile, eccetera, insomma abbiamo degli strumenti in più per affrontarlo, cosa che normalmente quando ti trovi in un paese tanto diverso dal tuo nella maggior parte dei casi diventa complicatissimo, anche per problemi di lingua, perché molti, comunque soprattutto nel primo anno, in cui devo dire che hanno capacità di acquisizione della lingua molto sviluppate, anche perché molti parlano già il francese o l'inglese comunque. Però è vero che soprattutto nel primo anno le difficoltà sono tante, e successivamente continuano ad esserci perché magari non sai scrivere comunque nella lingua nostra, quindi comunque serve sempre una mano, sempre un aiuto, quindi anche i problemi più piccoli diventano a volte insormontabili, insomma. E voi, diciamo, vi fate aiutare da qualcuno che sappia un po' una lingua di un immigrato, tramite altre persone, sì, che avete aiutato? Sì, all'interno dello sportello alla fine va ben normale, dopo un anno di attività abbiamo gli affezionati, di cui Said per esempio fa parte, sia perché condividono gli stessi spazi nostri all'XM, magari svolgono più attività, per esempio all'XM c'è la scuola di italiano con migranti, che quest'anno addirittura è arrivata a quasi una cinquantina di iscritti, quindi comunque ha una bella base di utenza, e nel corso avanzato, quindi saranno una decina di persone che fanno il corso avanzato, quindi sono persone che seguono già da tanti anni, hanno una conoscenza della lingua italiana discreta, e loro molte volte si prestano ad aiutarci, a farci da interpreti, da mediatori, insomma se capita qualche persona che ha problematiche linguistiche molto grosse ci aiutano. Idem se invece molte persone arrivano allo sportello già con un amico, con una persona che comunque un po' conosce il caso, quindi ci racconta, conosce meglio la lingua, queste cose qua. Però sì, abbiamo chi... Siete anche le prime persone a cui loro chiedono aiuto a livello anche medico, dice delle cose più, sì, più semplici, non è solo un lavoro, diciamo, di legge che dovete fare iniziale. No, anche no? Perché infatti lo sportello è anche medico, abbiamo due medici che lavorano con noi e che svolgono tutto quello che può essere sempre informazione e orientamento alle risorse mediche del territorio, tutto quello che può essere un piccolo aiuto immediato, se c'è da mettere un cerotto, medicare una ferita, sono tutte cose che insomma si fanno di prima. Ma soprattutto è da dire che queste persone non hanno un sistema sanitario, quindi diciamo è difficile. Se in realtà c'è stato un problema, nel senso che allora le persone regolari sul territorio, quindi chi ha un permesso di soggiorno ha accesso all'iscrizione al servizio sanitario nazionale, quindi accede alle stesse pratiche a cui accediamo noi, okay? Alle stesse cure, alle stesse esenzioni, allo stesso tipo di trattamento. Chi è irregolare naturalmente no, cioè nel senso accede solo a quello che può essere emergenziale, quindi certo se uno arriva che, voglio dire, ha avuto un incidente, comunque viene, gli vengono prontate le cure. In realtà non so bene come funziona sui pagamenti dei servizi in quel caso, so che il primo soccorso e questo tipo di cose vengono comunque erogate, anche perché, voglio dire, sarebbe assurdo, insomma. Quello che si è creato di problema in questo momento è stato con i titolari di permesso temporaneo, perché a loro, però parliamo solo della regione Emilia-Romagna, c'è stata proprio una circolare del servizio sanitario regionale che ha classificato i possessori di permesso temporaneo come possessori di un'iscrizione particolare, per cui invece che essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale e avere la famosa STP, sono stati considerati PSU. Vengono proprio sotto questa dicitura, che significa semplicemente permesso soggiorno umanitario, però non li fa accedere agli stessi servizi di tutti gli altri titolari di permesso di soggiorno. Ora, questa è una cosa che è in discussione con la regione, eccetera, anche perché è una cosa che ha fatto, penso, solo la regione Emilia-Romagna, ed è una cosa che sinceramente non si capisce, perché tutti i titolari, per legge, tutti i titolari di permesso di soggiorno devono avere un accesso alle cure mediche uguale a quella dei cittadini italiani. Quindi non si capisce perché invece la regione Emilia-Romagna abbia dovuto specificare che invece sono in un regime diverso, che permette sempre l'accesso alle prestazioni sanitarie d'urgenza, quindi alle emergenziali, eccetera, però limita molto l'accesso alle prestazioni date con ticket, che devono essere, insomma, le prestazioni che sono, adesso non mi viene la parola, come prime comunque esigenze proprio umane, questo è, perché poi sì, illegale lunghi non significa aver fatto qualcosa di male. Illegale è essersi trovato in un posto diverso da casa sua senza documenti, sì, e senza dare la possibilità di poter muoversi né da una città all'altra né da un paese all'altro, quindi è come se fosse una perdita di identità. Invece vediamo che con l'avvocato Giordano la cosa è un po' diversa, perché è nata a Bologna questa idea dell'avvocato di strada. Sì. Se sì, mi puoi raccontare un poco, soprattutto il peso del perché è nata un'idea del genere inerente a una situazione che potrebbe essere sfruttata solo a livello economico e basta, invece voi avete pensato a un'idea così nobile? Sì, sì, Avvocato di Strada nasce come progetto a Bologna circa 10 anni fa, all'interno di un'associazione che si chiama Piazza Grande. È un'associazione che si occupa di sostegno alle persone senza dimora, distribuzione pasti e sostegno generale. All'interno di questa associazione hanno cominciato a collaborare in maniera spontanea e volontaria degli avvocati, che si sono subito resi conto che per una persona senza dimora, perché questo è il tipo di utenza di cui noi ci occupiamo, è impensabile cominciare un percorso di reinclusione sociale senza far valere i propri diritti e tutti quegli senza ostacoli. Senza una residenza, quindi. Anche tra le altre cose, senza una residenza. E quindi hanno cominciato a prestare attività di consulenza, ma anche di tutela vera e propria, legale, stragiudiziale, cioè fuori e dentro ai tribunali. E la cosa è andata bene, il gruppo è cresciuto, è diventata una bella squadra di avvocati. Nel 2007 si è costituita in associazione e al momento abbiamo anche sportelli in altre città d'Italia, siamo presenti in 20 città italiane, quindi abbiamo una rete nazionale di avvocati di strada, siamo circa 400, siamo presenti anche in città come Milano, Napoli, Padova, quindi altre grandi città importanti, però sì, l'esperienza è nata qui a Bologna. Ci occupiamo di persone senza dimora, quindi persone che vivono in strada, ma anche in macchina o nei dormitori, nei centri d'accoglienza. E ci occupiamo, insomma, il tema è l'immigrazione, persone senza dimora, ci sono sia italiani che comunitari che extracomunitari. Così, un dato storico, noi usiamo raccogliere i nostri dati ogni anno e pubblicarli, perché abbiamo un po' anche, insomma, l'ambizione di diventare un piccolo osservatorio in materia di povertà e diritti. E pubblichiamo ogni anno un report che è disponibile sul nostro sito www.avvocatodistrada.it, dove illustriamo un pochetto cosa abbiamo fatto, quanti utenti abbiamo seguito, quante persone senza dimora abbiamo difeso e in che materia, in materia civile, in materia penale, in materia di immigrazione, in materia amministrativa. E sin dalla nostra nascita l'utenza di origine straniera era chiaramente maggioritaria, insomma, non penso di dire una cosa sorprendente se dico che in strada ci sono più persone straniere che italiane. E per gli avvocati in questo momento sì. e come rapportarsi a questo tipo di utenza. Voi parlavate prima del problema della lingua, che insomma è importante, è vero. Io te ne cito un altro di problema, perché anche noi ci avvaliamo comunque di mediatori culturali, ci volgiamo ad altre associazioni, a personale che comunque ci dà una mano nella relazione, il colloquio con il nostro utente. Un altro problema è, come posso chiamarle, quelle barriere di tipo informale, cioè quella giungla burocratica nella quale si trova la persona senza dimora, la persona straniera, quando arriva in Italia, per la quale un servizio, una prestazione che è dovuta dal nostro Stato, dalle nostre regioni, dai nostri comuni, per un italiano magari è una cosa insomma consolidata, fa parte ormai della nostra cultura, diventa un ostacolo insormontabile. Cito la questione residenza, una questione con la quale noi abbiamo sempre a che fare. Vai a spiegare perché ci vuole residenza, qual è la differenza fra domicilio e residenza e perché per l'iscrizione al centro per l'impiego è sufficiente solamente il domicilio, mentre per un colloquio con l'assistente sociale c'è bisogno della residenza. Sono tutte questioni che insomma sono difficili anche nella relazione d'aiuto con i nostri utenti. E per questo cosa abbiamo pensato? Insomma, quando abbiamo di fronte dei tipi di problematiche che non sono strettamente giuridiche, insomma ci sono un sacco di utenti che si rivolgono ad avvocato di strada, magari perché non hanno esattamente bisogno di un avvocato, di promuovere una causa, di tutelare un proprio diritto in maniera specifica, ma perché semplicemente dicono: io non ci capisco niente, perché devo avere la residenza per avere un colloquio con l'assistenza sociale? Ma questo è il problema. Esatto. Per fare questo abbiamo attivato, abbiamo potenziato, diciamo così, la squadra dei nostri avvocati con un gruppo di studenti, laureanti e neolaureati in legge che fanno sostanzialmente operatori di sostegno. Quindi da un po' di tempo noi accompagniamo fisicamente le persone senza dimora presso tutti quegli uffici o servizi che diventano problematici per queste persone. Penso all'anagrafe, penso al CUP, penso all'assistente sociale, tutti questo tipo di servizi, per far sì che il rapporto con l'operatore pubblico sia garantito in maniera corretta, nel senso che non ci siano fraintendimenti, che l'utente non torni indietro da noi a dirci: che è successo qua, non ho capito, ma perché l'assistente sociale mi ha dato appuntamento fra 6 mesi se io ho bisogno in maniera urgente adesso. Abbiamo affrontato questo tipo di problema in questo modo. Ok, buonasera. Lei come si chiama? Antonio. Piacere. Allora, una domanda e subito le faccio parlare, signor Antonio, così fa anche lei la domanda agli avvocati, se le... Prego. Il problema è che queste persone vengono accompagnate comunque nei luoghi nei quali si deve iniziare ad essere cittadini italiani, o comunque essere non cittadini italiani ma non fuorilegge. Ma il problema è queste cose che loro fanno, per esempio, che ne so, mi viene in mente l'INPS, no? Ci sono immigrati che per tanto tempo, non avendo problematiche di immigrazione o comunque avendo passaporti, eccetera, non hanno poi diritti che abbiamo noi italiani con lo stesso lavoro che svolgiamo nel caso. Questa è una cosa che, per esempio, voi avvocati che volete appunto cambiare un modo di pensare, lo volete fare, oppure la vostra lotta è... si ferma a queste informazioni? Noi siamo qui apposta, siamo qui apposta per tutelare queste persone, lo facciamo sia noi che gli amici di Alsirati in maniera totalmente gratuita, tutto volontariato, insomma, che oggi nel 2011 insomma è bello ricordarlo, che ci sono dei professionisti che prestano la propria attività, il proprio sostegno, il proprio lavoro in maniera gratuita. Sì, chiaramente se ci sono questi problemi, tu mi hai citato l'INPS, non è sicuramente colpa dell'INPS o della regione o del comune, dello Stato, del governo. Ci sono tante questioni. Verissimo è che soprattutto che in materia di immigrazione, poi Sara che è una specialista magari me lo sa dire meglio di me, siamo di fronte a una normativa spesso di tipo emergenziale che viene emanata, rinnovata di governo in governo, anche dallo stesso governo sull'onda di istanze di sicurezza o di paura, vera o presunta che sia, e quindi ci troviamo comunque di fronte a situazioni sempre nuove verso le quali sia i cittadini stessi, sia le persone straniere, sia noi professionisti, sia il servizio pubblico, tutti gli operatori, ci troviamo spesso di fronte a una formazione veramente permanente. Sì, la realtà è che, se posso aggiungere, è che si sta formando un diritto stratificato, cioè una roba che comunque è ancora tutta in divenire, ancora non si capisce bene. Hanno emanato il testo principale senza poi spiegare quello che vuol dire, quindi senza riempirlo di contenuti in realtà, dando per scontata l'applicazione dei diritti fondamentali, cosa che poi nella pratica invece non avviene. Per cui probabilmente in questo momento, secondo me, il bello e il brutto del diritto dell'immigrazione è questo, cioè che non c'è certezza. È il bello perché hai tanta possibilità di creare, di inventare soluzioni, di trovare le soluzioni, di creare delle nuove prassi, voglio dire, quello che poi si fa come interpreti del diritto, per cui cercare di interpretare la norma nel modo più favorevole, ed è così, io penso che sia questo il nostro modo di lotta, nel senso la lotta che si fa da avvocati è questa, cioè riuscire a portare il diritto e un'interpretazione del diritto che sia favorevole, che sia, che rispecchi i principi che tu cerchi di portare avanti comunque. È il brutto perché lascia comunque le persone che subiscono queste fasi interpretative nell'incertezza assoluta. Per cui la fase interpretativa non è detta che poi vada nel senso che tu vuoi, non è detto che la questura risponderà dicendo sì, ok, va bene. Magari lo farà nel caso singolo, senza però darti possibilità poi di farlo. Da questo punto di vista io spero, cioè spero poi che, visto che le associazioni che lavorano anche in questo settore, io spero che anche i singoli privati che lavorano in questi settori, dal sociale al professionale, voglio dire, mano a mano portino tutti avanti la stessa istanza, cioè che è inumano che persone umane abbiano trattamenti diversi all'interno degli stessi servizi, delle stesse prestazioni, delle stesse... Si dice che, come vedi che viene trattato l'immigrato, così vedi il cittadino come viene trattato, no? Poi alla fine. Sì, nel senso perché che... poi determinati problemi, diciamo, fondamentalmente riguardano anche noi cittadini italiani. Alla fine si parla di immigrazione, ma è una differenza nel sociale che è piena. Vi ricordo sempre che siamo su Radio Elia Media, ci troviamo in Piazza Puntoni e ci potete sentire su www.eliamedia.org. In questo momento vi farò sentire un piccolo spacchetto composto da Giuseppe Galazzo, che è un compositore torinese. Prego. Cosa sei? Cosa sei? Thank you. Salve, ringrazio sempre Giuseppe Galazza e poi vi ricordo che siamo su Ciao Bologna, potete sentirci su www.eliamedia.org e ora passo la parola al signor Antonio che si è trovato a passare e giustamente vuole dire quello che pensa. Il signor Antonio da dove viene? Io vengo da Bologna, però sono nativo di Napoli e sono circa 18 anni che vivo a Bologna. Quindi penso di conoscerlo un pochino e di aver visto anche i vari passaggi. Sono uno che vive per strada, non mi vergogno, però con molta dignità. Ciao. Ciao. È un piacere. Per quanto riguarda il rapporto fra noi di strada e gli stranieri, ultimamente si sta creando una brutta indisinocrasia, una brutta cosa. Nel senso che la maggior parte di noi è convinta che i vari enti aiutino molto di più gli stranieri che non tanto gli italiani, ma questo semplicemente perché loro fanno una semplice deduzione. Aiutando lo straniero, chiaramente il comune, la provincia, la regione, sempre più su, mandano anche più aiuti, hanno anche più disponibilità di aiutare. Tanto è vero che alla mensa dell'Antoniano siamo 12 italiani, il resto sono tutti stranieri. Non so se è la loro politica o meno, però io porto la voce della strada e posso dirvi che questa cosa crea un po' di tensione, insomma. Questa tensione è tra di voi, sì, sì, tra l'immigrato e l'italiano, perché voi perdete diciamo dei bisogni, non li avete, non vi vengono forniti, che cosa, perché? No, questo non posso assolutamente dirlo, okay. Però posso dirti che i posti che frequento, per esempio anche la mensa la mattina dove si va a fare colazione dalle suore, che Dio le benedica, eccetera, eccetera, sì. Andate a vedere, sono molti, molto di più gli stranieri che non gli italiani. Cosa succede? Cosa? La guerra dei poveri. Succede che l'italiano dice: ma perché a loro sì e a noi no? Una delle ragioni sarebbe: vabbè, giochiamo in casa, abbiamo più possibilità, eccetera, eccetera. Ma non è così, non è affatto così, perché come è difficile per loro, è difficile anche per noi. Sono fratelli, per l'amor di Dio, ci mancherebbe altro. Però non entriamo nel giochino dell'occhio che deve vedere o la istituzione che deve giudicare. Ma infatti a noi fa piacere che lei sta qua proprio per questo. Non perché mi fai sentire vecchio. Ok, ciao. Ciao. Allora, ci fa piacere che tu stai qua proprio per farci capire meglio, perché la cosa più importante è la comunicazione. Allora, se noi ci riempiamo la bocca di parole che non servono a nulla, è inutile che ne parliamo. Quindi tu raccontami, per esempio, proprio perché mi parli di questo problema, di questa distinzione tra te e l'immigrato, cos'è che ti sta mancando in questo momento rispetto a prima? Io personalmente sono della filosofia che uno è meglio che zero, sia chiaro. Cioè, nel senso che tutto quello che mi viene fornito, togliamo sto grazie a Dio che è proprio un mio intercalare, tutto quello che mi viene fornito da me viene ben accettato. Torno a ripetere, sono 18 anni che vivo per strada. Sono di questo punto di vista, però sentendo parlare i miei fratelli di strada, i miei compagni di strada, come meglio definiamoli così, mi accorgo che fra di loro c'è questo malumore, questo sentore, una forma di razzismo, non razzismo latente, una forma contrarietà, di dire perché a loro più agevolazioni e a noi meno. Ma appunto, come avevi detto tu, questo è il problema di uno Stato italiano che fa in modo tale che gli italiani non possano avere le proprie necessità, non possono condividere le proprie necessità con gli immigrati, perché alla fine nessuno di tutti e due ha quello che dovrebbe avere di diritto. È quello il problema. Però a questo punto, visto che abbiamo capito questa cosa, perché diciamo dovremmo un attimo riflettere e pensare di non fare la guerra tra poveri, ma vedere veramente e cercare la collaborazione tra tutti quanti noi? Ecco perché c'è la presenza dell'avvocato, degli avvocati qui presenti, proprio per questo, per dare modo di creare una rete, perché se non ce la creiamo noi questa rete, nessuno darà a te più un pranzo o a me un lavoro per poter mangiare. Cioè, su questo sono d'accordo, cioè, che le finalità debbano essere uniche, sono d'accordissimo. Però sai, una cosa è parlarne, una cosa è viverla 24 ore su 24. Se io non mangio, io mi incazzo. Sì. Se io non ottengo una certa cosa e vedo che l'altra la ottiene, io mi incazzo. E non me la posso prendere con, diciamo, con il direttivo, con colui che sta molto più sopra. Perché se mi, adesso, per l'amor di Dio, non voglio lanciare delle accuse, però se io mi espongo un po' più di quanto dovrei espormi, potrei andare anche incontro a brutte cose. Chi vuole intenda, intenda. Si possono chiudere parecchi portoni, perché sono un elemento di disturbo. Parecchie situazioni non mi possono essere facilitate, hai capito? Quindi posso dirti solo che c'è questa guerra latente, non proprio evidente, però latente. Parlando con i miei compagni di strada, spesso e volentieri viene a galla sta cosa, no? Ma come agli stranieri di più e a noi di meno, no? Vediamo un attimo. Io se posso, sì, su questo. Ciao Antonio, ciao. Intanto. Ciao. Io sono d'accordo con la sua visione, nel senso che è vero quello che discutevamo anche prima con Costantino, è proprio questo, cioè che si sta alimentando una guerra tra poveri, cioè si sta scegliendo di creare dei canali differenziali a seconda delle povertà da cui uno arriva o le povertà a cui uno è costretto, perché comunque è un sistema che crea questo tipo di povertà. Per cui nel momento in cui una situazione come è stata definita emergenziale, quella dei cittadini tunisini arrivati tra il 31 dicembre dell'anno scorso e il 5 aprile, che già questa è una limitazione assurda, però hanno voluto limitare già solo a quelle persone, e a quelle persone sole è destinato un piano di accoglienza, quindi di accesso immediato a delle strutture che per dormire, dei soldi che sono stati erogati in maniera veramente discutibile, perché c'è stata un'attribuzione diretta e completa, oltre che unica, alla protezione civile nella gestione di una marea di soldi. E tra l'altro, se pensi che per ogni migrante in questa situazione vengono stanziati circa 50 euro al giorno alla protezione civile per migrante, io capisco che una persona che vive per strada da tanti anni, italiano eccetera, dice: ma scusa, perché a loro gli devi pagare lo Stato, non l'ente caritatevole, non la persona che si prodiga in favore dei diritti, ma lo Stato paga un tetto, quindi un alloggio, un pasto caldo, pranzo e cena, gli dà addirittura 2,50 euro al giorno per comprare per i beni di prima necessità, che voglio dire sono delle cose non discutibili di per se stesse, ma è quello che dovrebbe essere garantito a tutti, cioè nel senso a prescindere dal tipo di povertà da cui provieni, dal paese di provenienza, così come il resto dei diritti che dicevamo prima, per cui all'immigrato devono essere limitati o interdetti dell'esercizio di alcuni suoi diritti, così è assurdo che a loro debbano essere riconosciuti invece dei vantaggi che magari all'italiano che vive per strada da tanti anni, o ai vari che adesso subiranno gli sfratti, perché c'è stato lo sblocco degli sfratti, quindi un sacco di gente si troverà veramente per strada, malati, indigenti. Sarà una situazione paradossale, perché si stanno stanziando un sacco di soldi per neanche risolvere una situazione, perché non verrà mai risolta tenendo le persone così, ma cioè alimentando un sistema di assistenzialismo, di non lo so come dire. Cioè fatto di proroghe, sì. L'abbiamo avvertito anche noi, questa cosa bruttissima che si chiama guerra tra poveri, spero che in realtà non sia così, ma insomma l'abbiamo avvertita in particolare in materia di un bisogno primario che per le persone senza dimora è quello di dormire con un tetto sulla testa, al centro Beltrame per esempio, questo dormitorio dove sono stati stabiliti non so quanti posti, 15 tunisini, che chiaramente diventano solo per loro, quindi diventano naturalmente 15 posti sottratti alle persone che vivono in strada e magari ruotano da dormitorio in dormitorio, perché poi ci sono diversi tipi di accesso, cioè il dormitorio di bassa soglia dove si può dormire solamente una settimana e poi si sta fuori, si torna dopo 3 settimane. Cioè, un sistema un po' complesso che non sto qui a descrivere, chiaramente lo trovo comprensibile anch'io. No, descrivere questa... è importante tipo, sì, questo tipo di sistema, perché per esempio, come dici tu, il fatto che in bassa soglia si possa dormire solo una settimana crea dissapori sul fatto che invece i tunisini accedono già all'alta soglia, possono stare là dentro per il tempo fino a che avranno questo permesso e fino a che ci sarà questa emergenza. Questa è una cosa che di sicuro tra persone che potrebbero accedere allo stesso servizio e invece non vengono fatti accedere crea dissapori, è normale che sia così, è questo che a parer mio sbaglia, si alimenta. Ma proprio per questa motivazione, secondo voi, com'è che si dovrebbe iniziare ad agire per cambiare questo modo di fare? Con la legge, perché poi si parla di legge, no? Questa legge, ma questa legge per chi è? Questa maledetta questi legge. Questi diritti per chi sono? Dai, dite la verità. Sì. Cioè, com'è che gioca così tanto e alla fine vince sempre il più forte? Cioè, questa è una domanda parecchio difficile. Ma voi penso che siete... Parecchio difficile. Che, cioè, per voi è difficilissimo, infatti io perciò ve la faccio, perché penso che... sia proprio difficile per voi combattere così tanto queste situazioni e poi vivere in un sistema per il quale quasi quasi vi dice sì, siete parte di quella parte che fa il danno. Cioè, che si fa, raga? Ok, io non mi accollo la responsabilità. Mi accollo il danno. Io, sono già licenziata. Un giorno magari, non lo so, saremo agli antivertici e ci potrete accusare di essere danno. In questo momento spero di no. Nel senso che è normale che le politiche dovrebbero cambiare, cioè nel senso, ma non... No, ma parliamo cioè di noi proprio, perché secondo me se dobbiamo aspettare chi di politica e cioè comunque persone che non hanno mai conosciuto il signor Antonio, comunque non se ne fregano minimamente del signor Antonio, è inutile che ne parliamo. Scusa se mi intrometto. Cioè parliamo, iniziamo a pensare noi per esempio come potremmo agire se c'è un'azione legale, perché secondo me per creare un sistema alternativo bisogna crearlo da noi, dalle nostre... Dici? Scusa se mi intrometto, l'ultimo intervento poi vado perché devo andare a mangiare in mensa, okay. Se no non mangio stasera. secondo me è una questione politica. Politica in che senso? A Bologna non so quanti appartamenti sfitti ci siano, quante realtà di aree, ex fabbriche, che ne so, ex scuole completamente vuote, abbandonate a se stesse, dove succedono anche alle volte dei fatti un po', no? Perché non mettere a disposizione questi cavoli di spazi? Dando addirittura la possibilità a coloro che lo gestiscono, che saremo poi noi, di guadagnare anche qualche soldino e di, no, di autogestirci quasi, diciamo. Chiaramente sempre dipendendo da una mente pensante che non può essere altro che insomma, avvocati beh, di strada, questa è una proposta che sociali, dovremmo eccetera, proprio far eccetera, sentire eccetera, alta eccetera, voce. Vabbè, io vi lascio, buonasera, buon proseguimento, vi sento nella grazie mia radiolina qua. Grazie, ciao, mi raccomando, ripassa se ti trovi domani. Io dico puoi sempre, parlare sempre. Sai qual è la mia maggiore legge? Il mio primo comandamento? Tony, girati, c'è sempre chi sta peggio di te, quindi non ti lamentare. Ciao. Grazie, ciao. Va bene, allora dopo queste super parole del signor Antonio che potrebbe insegnare a grandi letterati di oggi, vi faccio sentire un'altra chicca di sempre di Giuseppe Galazza. Intesa come collaborazione e la gentilezza intesa come ascolto possono potenziare l'arte. Thank you. Salve, ci ritroviamo sempre su Piazza Pontoni con Elia Media. Ci potete sentire su www.eliamedia.org. Ciao. Potete venire a intervenire quando volete. E stiamo continuando a parlare con Sara Puddu e l'avvocato Giordano. Chi è che voleva prendere la parola? Said, vuoi dire qualcosa? Dici ciao. Questo è un programma che si chiama Ciao, quindi dici ciao. Ciao. Dillo in lingua tua, tu da dove vieni? Dove vieni dal Marocco. E come si dice ciao? Salamu alaikum. E come devo rispondere io? C'è qualcuno che dice? Alaikum salam. Alaikum salam. Senti, vuoi dire qualcosa? Ora no? Dai, pensa che io mi metto vergogna uguale a te. Tu parli il necessario, va bene? Come parli? Magari un'altra volta. Dimmi un po' che ti piace fare. C'è qualcosa, se non mi sbaglio, ti piacciono delle cose con le ruote. Non piace niente. La vita è merda. E beh, se non lo dici tu, chi è che lo deve dire? La bicicletta però ti piace? Sì, molto. Che fai infatti tu? Le sai aggiustare bene? Sì, bene, c'è problema di documenti. Documenti che cosa sono? Sono la tua identità, Said? Ho fatto due mail 8 ottobre. Ho fatto domanda di la badante. E così ho... Per avere il lavoro di badante. Sì. E poi è iniziato tutta la tua odissea, i tuoi problemi. Problemi, già il controllo di a casa, giusto? Sì, è giusto. Già il controllo a casa di... È arrivato il controllo. È arrivato il controllo del logo via l'Europa. Quindi, E ti hanno detto no, non è vero, che fai? Sì, non è vero, non c'è sei il lavoro, solo pagare dei soldi, sei furbo. E tu sei il furbo. Quindi facciamo spiegare un poco questa cosa a Sara. Sara, ci puoi spiegare, Said? Sì. O persone come lui, perché lui è... Sì, Said in particolare, insomma, è un nostro affezionato dello sportello e abbiamo trattato il suo caso all'inizio, proprio l'anno scorso, quando abbiamo iniziato con lo sportello, e Said è stato una di quelle tante, purtroppo, persone vittime della sanatoria, della truffa della sanatoria Colfe Badanti. Cosa significa? Che c'era stato un periodo in cui è uscita questa sanatoria, per cui chiunque avesse questo contratto da Colfe Badanti poteva essere regolarizzato pagando, visto che era un mestiere che si praticava a nero, pagando il datore di lavoro un tot, poteva regolarizzare lo straniero e quindi dargli la possibilità di avere questo permesso di soggiorno particolare. In quel frangente, naturalmente, insomma, chi può farsi ricco si è fatto avanti e quindi hanno iniziato a vendere dei finti contratti ai ragazzi che pagavano naturalmente con la promessa di avere poi questo permesso di soggiorno. Per cui, ora non voglio, infatti non perché... Sarebbe una giustificazione che non ha senso, però molti, quando per dare la possibilità di regolarizzarsi, cosa fanno? Ti danno il contratto, pure se è fittizio, e tu paghi un tot che assicura il pagamento dei contributi, ok, le spese che il datore di lavoro avrebbe, tu gliele paghi, però sì. Ti darebbe una garanzia di permanenza nel territorio. La truffa nella truffa qual è stata? Che invece tutti quelli che avevano fatto questi contratti, non tutti, alcuni di quelli che avevano fatto questi contratti col Colfe Badanti hanno preso i soldi e sono spariti. In realtà o i datori di lavoro non esistevano, erano già morti o erano non si sono mai presentati a firmare realmente questo contratto di lavoro e quindi dare una reale possibilità alle persone di avere poi il permesso di soggiorno. Quindi cosa è successo? Che molti di questi ragazzi si sono trovati che non solo avevano speso un sacco di soldi per avere questo contratto e quindi materialmente anche nell'impossibilità poi dopo di pagare un avvocato, far valere il proprio diritto su quello che è, ma oltretutto non era neanche, si ritrovavano loro malgrado nella situazione di legalità e irregolarità e quindi potevano essere espulsi, quindi oltre al danno la beffa, non c'era nessuna possibilità di difendersi da questa cosa, non potevano denunciare perché illegali, non potevano, cioè era proprio un circolo vizioso. È intervenuta da poco invece una delle pronunce che hanno previsto il rilascio di un permesso di soggiorno simile al permesso di soggiorno per motivi di giustizia per le persone che denunciano il datore di lavoro che li ha truffati. Quindi per il periodo in cui c'è perlomeno la, diciamo, la causa, si cerca di... Che però in tutto questo chi è che non viene, diciamo, preso? Cioè colui il quale ha fatto il danno è libero. Cioè certo. L'agenzia è libera. Certo. Non è una povera persona che ha detto vabbè, io lo do il lavoro anche se non è vero, do il mio nominativo, ma è l'agenzia che non solo non ha nessun problema legale, ma ha anche intascato tutti i soldi. Sì, nel caso di Said in particolare, cioè invece che un privato è stata proprio un'agenzia, quindi c'è ancora peggio, nel senso sta diventando una prassi quasi istituzionale, voglio dire, sta diventando una roba che praticano non più appunto il semplice, la semplice persona che cerca anche di arrabattarsi rubando all'altro povero, voglio dire, però diventa una prassi addirittura delle, sì, del sistema. Del sistema. Sì. Del sistema, questo è proprio un modo di pensare che secondo me inizia ad agire proprio... Sì. Anche sì, rende sempre più difficile la situazione, nel senso che nel momento in cui queste prassi diventano così addirittura quasi istituzionali è difficile difendersi poi da questo, perché loro diventano merce, punto, merce di un'economia che va ad ingrossare, voglio dire, poche tasche, e sono totalmente indifesi in tutto questo, perché obiettivamente lì entrano tutti i problemi poi della lingua, non sapere a chi ti devi rivolgere, a chi puoi denunciare. Molti non sanno neanche, per esempio, perdono il passaporto, non sanno che devono andarlo a denunciare, che devono andare, hanno paura ad andarlo a denunciare, perché ma vai lì. Poi non conoscendo la lingua possono dire un sì sbagliando invece di dire no. Possono, cioè, firmare fogli senza sapere cosa stanno firmando. Cose che noi non sappiamo, perché noi ovunque andiamo alla nostra ambasciata italiana, ta ta ta ta, è tutto a posto, no? Invece loro non possono neanche rientrare nelle proprie ambasciate, perché se no che cosa succederebbe se facessero una cosa del genere? Ma in realtà sull'ambasciata qualche dubbio ce l'ho, nel senso che non credo che l'ambasciata sia obbligata a denunciare la persona anche se è illegale. Al massimo l'ambasciata propone un rimpatrio assistito, che è quello che succede anche un italiano all'estero se si trova senza documenti, voglio dire, ti aiutano a tornare a casa, ti fanno un prestito tra virgolette e poi tu restituisci i soldi quando rientri nel tuo paese, ma questo avviene anche per gli italiani, voglio dire, se sei in America e sei illegale, per esempio, perché in America il sistema più o meno è simile, l'ambasciata semplicemente ti fa un prestito per il rimpatrio, punto, quando torni glielo ridai indietro, questo succede. Quello che è il problema è, per esempio, se non lo so, una qualsiasi persona di loro ha un motorino, gliela rubano, non può andarlo a denunciare, perché nel momento in cui gli fanno il riconoscimento, cioè tu vai a denunciare il furto del motorino e ti chiedono nome e cognome, alla questura si infilano i dati e vedono che tu sei senza permesso di soggiorno, sei illegale, quindi ti prendono, ordine del prefetto, del questore, espulsione, detenzione al CIE, cioè questo è il percorso. Ripeto che illegale non significa che si abbia per forza fatto qualcosa di non legale, ma cioè, è solo e esclusivamente la perdita di un'identità, di una carta la quale ti dice chi sei, e con quella carta non puoi fare proprio più niente. Questo poi la questione dei documenti, dello smarrimento piuttosto che della sottrazione dei documenti, è insomma una questione molto delicata, soprattutto per gli stranieri che vivono in strada. Insomma, portare sempre con sé i documenti. No, ho avuto un sacco di casi di nostri utenti che si sono visti sottrarre questi documenti, il passaporto e chiaramente qualche volta da altri connazionali è successo spesso ultimamente, magari anche a fini di ricatto ogni tanto, insomma ci troviamo veramente di fronte ad una giungla di problematiche. E iniziano a sfruttarsi l'uno, cioè iniziano una catena di sfruttamenti, perché alla fine è come se tenessi in mano una persona, quindi... Sì, purtroppo sì. E quello che no, insomma, noi possiamo fare, al di là poi dell'intervento legale, come associazioni, è stato fare una bella rete fra di noi. Adesso appena ci siamo visti io e Sara abbiamo subito cominciato a parlare, ma tu conosci questo, conosci quello, facciamo così, facciamo colà, perché è una cosa fondamentale, nel così senso si che deve fare, sì, noi siamo tutti quanti piccoli, ragazzi, piccoli, la partecipazione siamo tutti, ogni luogo deve essere e deve esistere, siamo tutti delle piccole squadre che però giochiamo, insomma, contro, giochiamo la stessa partita veramente, vogliamo fare gol nella stessa porta. Per cui questo, insomma, anche quando ci chiedevi, insomma, cosa possiamo fare noi, cosa potete fare voi, questo prima di tutto, una grande rete, associazioni, cittadini, pubblico e privato, privato sociale, per prima di tutto, insomma, intercettare questi bisogni, le persone, i loro bisogni, e poi affrontarle tutti quanti insieme, ognuno con le proprie competenze, gli avvocati in materia legale, i medici in materia sanitaria, e le altre associazioni per le altre questioni. Insomma, noi un piccolo punto di partenza per fare rete è questo qua, che magari tante persone conoscono, è questo libricino giallo che ho in mano, si chiama Dove andare per. Dove si trova? Allora, noi lo pubblichiamo ogni anno, ne pubblichiamo migliaia e migliaia di copie, ce l'abbiamo noi, lo distribuiamo a tutte le associazioni, parrocchie, mense, dormitori, va addirittura nel kit del detenuto in uscita, ed è un libricino in formato tascabile con tutti gli indirizzi su dove andare per trovare un pasto caldo, un posto dove dormire, un avvocato, un medico, un supporto. Questa è un'idea geniale, che comunque non è... È nata come piccola idea che poi è diventata veramente uno strumento fondamentale sia per l'accesso a questi diritti, a questi servizi da parte delle persone senza dimora, sia per noi associazioni, per metterci in rete, per conoscerci. Insomma, prima noi non ci conoscevamo, insomma, Bologna è piena di associazioni, ci sono un sacco di realtà, sì, anche molto valide, che fanno un bellissimo lavoro, che chiaramente magari per diversità di approccio, di utenza, anche semplicemente di non conoscenza, non comunicano, non dialogano. Con questo libricino, insomma, ultimamente ci conosciamo, perché poi ci mandiamo, scambiamo le nostre prassi, scambiamo le nostre opinioni, i nostri problemi, facciamo delle strategie comuni. Questo è il ruolo che in questo momento possono avere le associazioni. Come le queste nostre cose sono importantissime, spero che la gente lo capisca, perché molto spesso, appunto, com'è la guerra tra poveri, la guerra è anche tra aiuti alla fine, cioè c'è una mancanza di fiducia completa anche, per esempio, nei vostri riguardi, non perché siete voi o della vostra associazione, in generale proprio, perché c'è un malcontento e una privazione di qualsiasi diritto che fa in modo di non avere più fiducia in voi. Quindi, cioè, io spero che con questa intervista si sia capito che c'è e continua ad esserci un sistema come il vostro, che è un sistema alternativo di fare legge, di applicare leggi che devono dare realmente la soluzione. Qua si parla di soluzione, non di parole o di cose che alla fine finiscono là, come per esempio oggi ci chiederemmo: ma come mai non c'è neanche mezza notizia su Lampedusa, che hanno finito, per esempio? E vabbè, questa è un'altra nota che si potrebbe continuare. Allora, io ringrazio sempre, che questa volta dico bene, l'Associazione Interculturale Alzirat, che promuove e incentiva politiche di accoglienza mediante la gestione di uno sportello informativo medico-giuridico per cittadini e migranti, che si trova nello spazio autogestito dell'ex XM, ho sbagliato, dell'XM, in via Fioravanti 24 Bologna. L'orario è dalle 19 alle 21, il venerdì, ringrazio Sara Puddu, l'avvocato Sara Puddu, per essere stata qua ed essere così gentile e soprattutto di lottare ogni giorno per questo, per questa alternativa che si creerà. E ringraziamo l'avvocato di strada, Giordano Costantino, il quale senza neanche un minimo di cenno di superiorità ha immediatamente accettato un invito da parte di una persona sconosciuta, una radio ancora in nascitura, e questa è una cosa da sottolineare perché non è da tutti, e quindi conferma il valore di quello che fate voi ogni giorno. Ringrazio Said per... ti do il benvenuto in Italia, che finora non te l'hanno dato. Grazie Mariana. Grazie a te, perché purtroppo comunque ho capito che la tua situazione si sta risolvendo e quindi è una cosa molto importante rispetto ad altre che non risolvono, e speriamo che comunque, sapendo che a Bologna ci sono queste due grandi associazioni, usufruitene. Vi ricordo che siamo su eliamedia.org, su Radio Kairos 105.5, figo, e vi ricordo che questa è la trasmissione Ciao Bologna, vi lascio con una pillola di sempre di Giuseppe Galazza. Ringrazio sempre le persone che sono venute qua ospiti, avrei continuato a parlare. Grazie. Secondo te la radio può essere parte dell'arte contemporanea? In the month of September, for the last 7 centuries, September is my favorite month. Ainsi qu'il se pressait, il y a 18 mois, autour de son roi foudroyé, et l'on y accueillait. The questions it was possible to ask about them, and no end to the answers it was not possible to frame. The owner of the canal was doubtless at the bottom of that aspiration and the breath of the garden. She was the artist mixture of the shrinking and the direct. Федор Достоевский, «Белые ночи», чувствовал, что во мне зашевелился какой-то враждебный бесенок, что мне уже начинало захватывать горло, подергивать подбородок, и что все более и более увлажняли глаза мои. Я ожидал, что Настенька, которая слушала меня... In truth, without her, I should have made but little advance. The fruitful idea was from her friendly lips. It was she who invented the shortcut, who severed the Gordian knot. It's not supposed to be the nature of women. Hostela porisufliu, hostela pidos agrias, hostela con nidion, hostela con nidion, hostela con nidion, hostela con nidion, hostela con nidion, hostela con nidion. La violence est la seule chose qui reste, quel que soit le régime. Aux étudiants, aux jeunes, aux enfants, aux femmes, aux hommes, ne veulent pas que les ménages, on leur donne la même satisfaction sur les petits. Pour la fin de la journée, on va se faire un peu de temps. la con million. Hostel la con million. Hostel la million. Hostel la con million.